Per quello che riguarda la parte operativa, sono stati attivati 2 centri operativi, 2 centri di coordinamento soccorsi, uno in prefettura La Spezia e uno in prefettura a Massa Carrara. Abbiamo anche dei team che sono presenti sul territorio a supporto dell'attività dei sindaci della regione. I comuni sono stati contattati, ma non tutti fisicamente raggiunti, almeno alcuni di questi, e ancora non tramite la strada ordinaria, perché è interrotta da frane e smottamenti. Le persone hanno trovato, diciamo, un'accoglienza tramite parenti e amici, oppure si troveranno soluzioni di tipo alternativo. La perturbazione che si sta spostando verso sud interesserà, diciamo, nelle prossime ore più che altro, con particolare riferimento alla parte di Calabria e Sicilia.